Studio si inizia a ballare, noi vogliamo iniziare a... E adesso c'è la foto di tutte, eccoci! Non lo vedete voi in radio, e potete immaginare questo studio con le amiche, il pubblico, Rosa, Sabrina, Donna, Claudia, Dalia e io stiamo qua a fare delle pose per fare le foto, perché comunque è un momento abbastanza, cioè, molto piacevole di essere insieme a Rosa, che è venuta qui una seconda volta alla radio per parlare di questo progetto Cerezza, che si svolge in Chiapas, a San Cristobal de las Casas, un progetto che va verso le donne che sono state incarcerate dopo diverse aspettate, vabbè, raccontiamo tutto questo. Buonasera. Posso iniziare le domande? Sì. Vado. Puoi iniziare a preguntare? Bueno, sì, sì, claro. Okay. Claro. vabbè, la mia prima domanda è solo: come sei arrivata a conoscere questo progetto? Come llegaste a conoscere il progetto della Cerezza? Bueno, perché tengo unos 10 años de vivir en Chiapas y allí... Pues empecé a trabajar con Patricia, que es la coordinadora del colectivo Cerezza. Perché ha vissuto per 10 anni in Chiapas e lì ha iniziato a lavorare con Patty, che è la coordinatrice del progetto Cerezza. Claro que es un colectivo de diversos, pues hay psicólogas, hay abogados, hay artistas, teatro, música, y así trabajan pues... dentro della carcere si empezó a trabajar, pues. È un collettivo che si occupa di dare appoggio legale, psicologico, anche artistico all'interno delle carceri. Y claro, entonces me invitaron a trabajar allí, entonces trabajaba la salud emocional por medio de la música o el teatro. E l'hanno invitata a lavorare lì per fare appoggio emozionale con la musica e il teatro. Ok, e fra un po' ci collegheremo con Patty, infatti Patrizia, che è dunque quella che è stata l'iniziativa della creazione di questo progetto, ma prima volevo tornare un po' indietro e se possiamo fare un'introduzione sul Chiapas e in quale, diciamo, in quale territorio nasce questo progetto. Puoi spiegare un poco del Chiapas, cioè in che territorio nace este proyecto? En Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, pues es una asociación civil de multidisciplinaria. No, ¿cuál es el contexto? O sea, bueno, un poco en Chiapas, ¿no? En Chiapas, pues claro, la tema de allí cultural, hay mucho racismo, hay mucho olvido para las mujeres, por ser pobres, por ser indígenas. Dice che in Chiapas c'è molto razzismo. Il Chiapas è una regione messicana che si trova all'interno di una foresta molto ricca e gli indigeni e le donne indigene sono molto dimenticate anche appositamente. Y también institucionalmente también hay mucho racismo, hay mucho machismo, hay olvido hacia estas mujeres que pues no tienen los recursos económicos o el apoyo social para comprar la justicia, porque ahí prácticamente ya se compra la Dice justicia. Dice che c'è molta ingiustizia anche a livello istituzionale, perché tutte queste donne sono non riescono ad avere economicamente i fondi per difendersi dalle ingiustizie. In Messico hai la presunzione della colpa. Che allí eres culpable hasta que se demuestra lo contrario. In Messico c'è la presunzione di colpevolezza. Quindi se tu vieni se si viene accusati senza avere la possibilità economica di difendersi, comunque sei a tutti gli effetti condannato, condannabile. Claro, ingresa una mujer en la cárcel que le designan un abogado de oficio, pero este abogado de oficio a veces, bueno, la mayoría de los casos se olvida de esta mujer por ser pues una mujer indígena que no habla el castellano, que no sabe leer ni escribir, que le hacen firmar una sentencia para que pase rápido el caso. Dice che fondamentalmente quello che succede è che all'ingresso di queste donne all'interno del carcere gli viene assegnato, è vero, un avvocato d'ufficio, ma normalmente queste donne non parlano castigliano, parlano i dialetti della regione, quindi non riescono a comunicare con gli avvocati, che fanno firmare delle, ovviamente delle carte in cui loro si autodichiarano colpevoli. Y también pues dentro de ese machismo institucional que existe, a los hombres y a las mujeres por un mismo delito, a las mujeres les dan generalmente más años de prisión que a los hombres. Inoltre c'è un machismo evidente perché per lo stesso delitto gli uomini sono condannati a meno anni di prigione rispetto alle donne. Vorremmo sentire Patrizia. Sì. Andiamo a sentirla. Hola, Patti, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho, Sabrina. Sí, hola. Hola. Hola, Patti, sono Silvi. Es Silvi que te está hablando, Patti. Ah, hola, Silvi, ¿qué tal? ¿Cómo hola. Están? Bene, bene. La domanda che vorrei fare è come ti è venuto in mente l'idea di fare questo progetto. Lavoravi in carcere e di là ti sei accorta che c'era proprio un problema verso alcune donne e forse molte delle donne lì, e dunque hai iniziato a fare questo progetto. La pregunta che te quería hacer es cómo empezaste este proyecto. Pero yo me voy a escuchar así. ¿Cómo empezaste este proyecto? O sea, ¿cómo te salió? ¿Tú antes trabajabas en qué? Para explicar. Bueno, yo llevo ya 16 años aquí en Chiapas, en México. Y bueno, actualmente somos un equipo de trabajo, que es la colectiva Cereza. Está David y Monse, que son los dos abogados del equipo. Mónica, que es antropóloga social. Tengo que traducirle un poco a la vez. Sí. Dice que son 16 años que le está laborando en... come assistenza psicologica, e ci sono anche altre persone. Però come, bueno, come empezaste la parte del colectivo Cereza? Come te salió? Come quisiste crearlo? Sí. En el 2009 organizamos un encuentro internacional de mujeres contra la violencia. Ah, okay. Dice che nel 2009 hanno organizzato un incontro internazionale con le donne proprio sulla violenza di genere. Y ahí es donde nos acercamos a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, que es la universidad local de acá, la Universidad Autónoma de Chiapas. Ok, da questo momento si sono avvicinate all'Università di Scienze Sociali Chiapaneca, che si occupa proprio di questo. Conocimos a una compañera, Nancy, que ya llevaba ya dos años trabajando con las mujeres en situación de cárcel, en la cárcel de aquí, de San Cristóbal. Ah, y hanno conosciuto lì una ragazza que si chiama Nancy, que lavorava già da due anni con le donne detenute nel carcere di San Cristóbal, que si chiama Cereso numero 5. Terminamos el encuentro internacional visitando a las mujeres en la cárcel, y a partir de ese momento pues nos involucramos. Hanno finito l'incontro internazionale proprio con un incontro all'interno del carcere con queste donne, da quel momento non ne sono più uscite. Sì. No, non ho potuto fare. En aquel momento nuestra compañera Nancy lo que hacía era trabajar cuestiones de género y de violencia intrafamiliar con las mujeres en situación de cárcel. Ah, en aquel momento Nancy lavorava all'interno del carcere con le donne per fare proprio un lavoro sulla violenza di genere interfamiliare con queste donne. Y de la violencia que se vivía adentro de la institución. Ah, e anche della violenza che si viveva all'interno delle istituzioni stesse. A partir de ese momento organizamos un grupo de trabajo y empezamos un acompañamiento psicosocial con las mujeres adentro del Cerezo. En principio, esa fue la primera tarea que nos propusimos. Ah, y da quel momento hanno iniziato un accompagnamento psicosociale all'interno del carcere con le donne. Questa è stata la prima cosa che hanno fatto. Eso es un poquito lo que ha contado Rosa también. Trabajamos a través de distintas estrategias. Con pintura, con teatro, películas, foros de discusión, etcétera. Se lavorano con film, teatro, fori di discussione, hanno degli incontri formativi tra di loro. Para promover la reflexión y el pensamiento crítico con las mujeres. Per promuovere la riflessione e il pensamento critico, il pensiero critico nelle donne. También la resolución de conflictos y organizar un grupo de apoyo mutuo adentro de la cárcel. E hanno anche organizzato un gruppo di appoggio mutuo all'interno del carcere tra donne. Tra donne. Porque hasta ese momento cada una vivía su propia situación con bastante secreto. Tenía miedo hasta de compartir su propia situación legal. Perché le donne all'interno del carcere avevano fino a quel momento molta paura anche di condividere con le altre qual era la loro problematica, per quale motivo erano entrate in carcere. Sì, había mucho miedo de compartir. E quindi avevano molta paura, ognuna la viveva in modo molto isolato, creando il gruppo d'appoggio invece tra di loro hanno potuto darsi una mano e farsi un po' forza. Y así fuimos empezando. Claro, al conocer la situación legal de cada una de ellas, pues nuestro objetivo cambió y el principal objetivo fue sacarlas de la cárcel. E quando hanno iniziato, quando hanno saputo poi il principale motivo della detenzione di queste donne, il loro obiettivo fondamentale è cambiato, quindi non era più di appoggio solamente psicologico, ma era la voglia di tirarle fuori da lì, dal carcere. Las mujeres acá viven una situación de abandono legal y social enorme. Dice, qui le donne vivono una situazione di abbandono sociale e legale enorme. En la cárcel en la que estamos hay 650 hombres y 70 mujeres. Nella carcere dove stanno lavorando loro ci sono 650 uomini e 70 donne. El área femenil estaba totalmente abbandonada. L'area femminile era completamente abbandonata. Da tutti i servizi sociali o de todos los servicios sociales o de quién estaba abandonada? De todo, hasta de los recursos del Estado dirigidos al área femenil, ¿no? Siempre casi todo se dirige al área varonil, tanto en cuanto a atención como en cuanto a talleres o apoyos o incluso alimentación. Dice, in tutti quanti i campi, perché proprio era l'appoggio dello Stato che andava sempre verso la parte maschile, quindi dall'alimentazione ai taller, che sono i corsi di formazione, era tutto quanto diretto verso la parte maschile del penitenziario, quindi loro erano completamente lasciate così. Las mujeres empezaron a acercarse a nosotras y a pedirnos apoyo legal. Le donne hanno iniziato ad avvicinarsi a loro e a chiedere proprio un appoggio legale, un aiuto. Sì, l'iniziativa partiò da ellas e quindi nos pusimos a buscar pues abogados que quisieran colaborar en el equipo. Quindi l'iniziativa è partita proprio dalle donne stesse e loro hanno semplicemente cercato di fare quello che gli veniva chiesto, quindi cercare avvocati che fossero disposti ad assisterle in forma gratuita e volontaria. Sí. La situación legal de las mujeres adentro del Cerezo, bueno, la mayoría son 60% indígenas, mujeres que vienen de la comunidad. El 60% de las donne detenute son indígenas, quindi vengono dalle comunità indigene chapaneche. La mayoría no hablan castellano. Non parlano spagnolo, quasi tutte. Un nivel de letrascrittura muy básico, el 30% no sabe leer ni escribir. Il 30% è completamente analfabeta, non sa né leggere né scrivere. Non ha conosciuto a suo abogado defensor en su proceso. En la detención, muchas no han conocido a su abogado defensor. Ah, dice che molte di loro non hanno neanche conosciuto il loro avvocato d'ufficio. Non hanno visto nessuno, no. Si sono ritrovate in carcere. Con una sentenza? Che? En cuanto a su proceso legal, la mayoría, bueno, empiezan a comentarnos, ¿no? Cuáles han sido las irregularidades en sus procesos. Muchas no han conocido a su abogado defensor. Dice sì, ci sono state tutte quante irregolarità processuali, quindi molte di loro non hanno neanche mai visto l'avvocato. Quindi non si spiega come siano stati firmati i fogli e come si sia stato svolto il processo. Dunque una. En el momento que fueron detenidas, por ejemplo, tampoco les asistió ningún traductor y les obligaron a firmar documentos. E quando sono state prese, quindi al momento dell'avvenuta detenzione, non gli è stato fornito nessun traduttore dalla loro lingua allo spagnolo. Quindi non sapevano neanche per quale motivo a volte. E da che cosa sono state accusate allora? llamó también. Dime. ¿Cuál es normalmente la, bueno, por qué están adentro mayormente? El 47% está por homicidio. ¿Ella? 47%. El 47% está dentro por homicidio. El 47% está por homicidio. Por homicidio, sí, por homicidio de su marido o de su agresor sexual. De su marido por una violencia sí. intrafamiliar sostenida. Normalmente, bueno, questo 47% è dentro per omicidio o del marito o dell'abusatore sessuale. Con ribellione. Sì, legittima difesa. Legittima difesa. Sono donne che non hanno avuto accesso a nessun tipo di appoggio o che denunciano, però nadie les escuchó. Sono donne che a volte hanno anche denunciato, ma non sono state ascoltate, non hanno avuto nessun tipo di appoggio. A parte non hanno nessun tipo di appoggio. Apoyo social, que en un momento dado termina quitándole la vida a su agresor como forma de defensa propia. Sí, sí. Diceva appunto legittima difesa a un certo punto, quindi. Ok. E poi c'è l'appoggio legale, dunque in modo di fare rivisitare, non so come si dice, rivedere il processo per fare uscire e poi una volta uscite. Ci hanno continuato questo progetto, c'è una casa anche adesso, no? Sì, bueno, después que salgan de la cárcel, o sea, de la ayuda para salir y revisionar el proceso, ahora también hay la casa, ¿no? Sí, desde hace un año y medio, pues otra de las necesidades importantes era, han perdido la mayoría de las mujeres, el 80%, también es importante decir que no tiene visita familiar, son rechazadas por sus familias, y sus comunidades. L'80% di queste donne sono rifiutate dalla loro famiglia e dalla comunità, quindi non ricevono nessun tipo di visita familiare. Sono anche state isolate dei loro figli. También fueron aisladas de sus hijos. Sí, sí, también fueron separadas de sus hijos. Bueno, pero los hijos la van a visitar o no? ¿Las van a visitar o no? Tampoco, el 80% no recibe visitas de nadie. Los hijos son dispersados y son otros familiares quienes hacen cargo de ellos. Dice que normalmente cuando le donne vengono detenute i figli vengono diciamo dispersi nella maggior parte degli orfanotrofi messicani, quindi se ne perdono le tracce. E dunque anche una delle loro obiettivo è di ritrovare i figli per rimetterli con le madre. Y uno de sus objetivos también es buscar los hijos, ¿no? Claro. El apoyo a la salida es la Casa Cereza, que es un hogar de transición. Y nos ponemos a buscar a sus hijos. Los vamos buscando desde que ya están adentro de la cárcel. Intentamos como restablecer la relación. Dice, già da quando sono dentro il carcere iniziano a cercare i figli per cercare di ristabilire un tipo di relazione familiare. Poi continua la ricerca anche quando sono fuori. Quindi l'appoggio loro è da dentro il carcere fino a poi l'uscita, la casa, la ricerca dei figli e l'appoggio lavorativo e formativo. Sì, infatti di questo vorrei parlare adesso. Dunque, qual è la priorità verso le donne quando escono di carcere? Qual è la priorità hacia las mujeres cuando salen de las cárceles? Bueno, cuando salen de la cárcel, la prioridad siempre es buscar a sus hijos, porque es lo que más les angustia, ¿no? Sí. Si no se ha restablecido esa relación y luego conseguir la custodia de sus hijos otra vez. Pero ellas cuando salen tienen un síndrome carcelario. La prima cosa che chiedono appunto è la ricerca dei loro figli perché vogliono ritornare con i loro figli. Poi una parte molto importante è anche quella di far sì che loro possano riottenere la custodia dei figli perché comunque sono donne uscite dal carcere, quindi. Mm-hmm. Poi a livello di formazione, rendere queste donne autonome se non possono tornare nelle loro comunità. Sí. Bueno, les apoyamos también en la formación, la capacitación y la búsqueda de empleo, sobre todo el autoempleo. Ellas el año pasado consiguieron la concesión de un comedor, que es el comedor Cereza, que está en la universidad. Dice que loro incoraggiano maggiormente il lavoro autonomo, proprio per renderle indipendenti. e riescono a fare questo in vari campi. Per esempio adesso alcune di loro hanno ottenuto un lavoro presso un comedore, in realtà è una trattoria all'incirca, sì, che è all'interno dell'Università di Scienze lì in, a San Cristóbal. Loro adesso lavorano lì. Estamos en ello todavía, estamos estableciendo una red de apoyo con amigos y amigas o conocidos que tienen restaurantes o cafeterías como espacios de trabajo, o ONGs también, organizaciones, como espacios de trabajo para ellas. Ah, sí, hay anche mencionado el fatto que c'è una síndrome carceraria cuando loro escono. ¿En qué se, bueno, puedes explicar qué es la síndrome carceraria? El síndrome carcelario. Bueno, esta cárcel es muy pequeñita. El síndrome carcelario es un síndrome psicológico. Las, por ejemplo, ahora las que están en la Casa Cereza, la media de estancia es han estado entre 9 y 10 años dentro de la cárcel. Dice la media, normalmente. Eso ha provocado muchísima dependencia. La carcere di San Cristobal è molto piccola e queste persone sono state normalmente dentro 9-10 anni in media, quindi quando escono non sono più abituate agli spazi aperti a stare fuori. Dependencia, falta di iniziativa, incluso parte del sindrome di Stoccolmo, o sea, muchas de ellas echan de menos la cárcel. Alcune soffrono anche la relación con la custodia. Alcune addirittura manca il carcere e la relazione che avevano con le altre donne. Sì. Con le custodias, che sono le guardie. Con le custodie, con le guardie. Ah. De dominazione. Però una sono relazioni di dominazione. Che sienten come niñas che han perdido su autorità, no? Che las decía tutto lo che había che hacer. Sì. Y de pronto se sienten perdidas dentro de la libertà, no? Certo, perché lei dice, ovviamente finché sono dentro si sentono come bambine che hanno sempre qualcuno che gli dice cosa devono fare, possono fare solo quelle cose. Nel momento in cui escono e recuperano la libertà, non c'è più nessuno che gli dice cosa devono fare, ma cosa vogliono fare. Questo è un processo molto difficile. E dunque la casa Ceresa è una tappa tra, cioè, per riabituarsi, per ritrovare la libertà e l'autonomia anche psicologica di autogestirsi, di autorevolezza, no? Perché casa Ceresa è una casa transitoriale, no? Che les aiuta también a seguridad en sí mismas, fortalecimiento psicológico, sí. Las acompañamos en todo el proceso de salida y en la estancia. A veces es hasta una cuestión física, no quieren salir de la casa Cereza, ¿no? Hasta caminar más de 100 metros les causa un tremendo cansancio físico. Porque la loro le apoyan absolutamente en todas las fases del recupero psicológico. A veces hay también un recupero físico, porque anche uscire a fare una passeggiata a volte le stanca proprio, quindi loro le appoggiano in tutto. C'è da dire che la casa è una casa transitoria, quindi non viene posto un limite di tempo in cui loro possono stare, ma quando se la sentono possono andare via. El miedo a los espacios abiertos, el miedo a la gente. Hanno paura della gente, degli spazi aperti. Pensando che las van a detener en cualquier momento. E pensano che in qualsiasi momento le possono incarcerare di nuovo. Entonces nuestro acompañamiento es acompañarlas casi al principio diariamente en su salida de la casa, a pasear, a caminar por la ciudad, por San Cristóbal, a ir al mercado. Dice, è una parte del loro lavoro è anche portarle fuori tutti i giorni, fargli fare le cose normali, quindi accompagnarla al mercato, accompagnarla a fare una passeggiata dentro San Cristóbal. Dall'inizio del progetto a quante donne sono state toccate, diciamo, da questo progetto? Quante donne sono riuscite a uscire con il vostro aiuto? Quante donne sono nella casa? Quante donne lograron salir della cárcel desde el empezar del proyecto y cuántas están en la casa? Sí, ahora mismo hemos llevado el acompañamiento legal de 29 mujeres. 29. Desde hace 29 mujeres, desde hace un año y medio llevamos 29 casos, han salido 18 de los 29 casos. Da un anno e mezzo che lavorano hanno già preso in carico 29 casi e 18 sono saliti, sono usciti. Più di un terzo. E nella casa Teresa hai 6 mujeres. E adesso nella casa ci sono 6 donne con 6 bambini e bambine. E come vedi il futuro di questo progetto? Pensi che comunque continuerà e c'è fino a riuscire a fare riuscire tutte e anche forse a fare in modo che non entrano? Come también empezar a hacer que no entren, o sea, lograr que puedan no entrar. Bueno, la prevención creo que le corresponde al Estado. Es una cuestión mucho más amplia, ¿verdad? Dice que la prevención tiene que ver con educación, con el acceso a recursos sociales y a información, ¿no? Dice cómo defenderse antes de tener que tomar una decisión de sobrevivencia. Dice que la parte de prevención, según loro, se debería ocupar el Estado, porque es una parte de, appunto, di cultura e di far sì che queste donne possano sentirsi anche sicure e che non debbano usufruire della violenza per difendersi. Sì, chiaro. È importante decir che bueno, che la situazione delle mujeres è di múltiple discriminación, no? Non solamente in México, nel mondo, no? Cioè, è importante dire che la situazione della donna è di una discriminazione multipla, ma non solo in Messico, in tutto quanto il mondo. Por ser mujeres, por ser indígenas, por ser pobres y por estar en la cárcel. Cioè, per essere donne, indigene, povere e anche in carcere. Las mujeres que están en la cárcel son el último reducto de la sociedad, ¿no? El lugar peor. Y es significativo además que ante un mismo delito las mujeres reciben una sentencia mucho mayor que los hombres. Dice que le donne che sono in carcere, le donne indigene in carcere sono proprio l'ultimo scalino del livello sociale. E è anche molto significativo il fatto che in Messico per lo stesso delitto, come dicevamo prima, donne e uomini non ricevono la stessa pena. Nosotras trabajamos en el colectivo Cereza, ellas forman parte del colectivo Cereza. Trabajamos también la formación y la capacitación y nuestro futuro es que ellas coordinen y sean y lleven el colectivo Cereza a todos los niveles. Dice que anche le donne fanno parte del colectivo, loro stanno cercando di far sì che le donne facciano parte integrante di questo colectivo e che possano portarlo avanti negli anni per recuperare altre donne ancora, quindi sì. Cercare una rete d'appoggio tra di loro sempre più grande. Hay muchas donne che sí, pues sí, bueno, aquí o en San Cristóbal o en otros lugares, ¿no? Pero sí, para el colectivo Cereza es importante también que estas mujeres que han salido de la cárcel tienen un sentimiento de solidaridad con sus compañeras que siguen adentro. Dice, per loro è molto importante che queste donne sviluppino un sentimento di solidarietà rispetto alle donne che ancora sono dentro, sono incarcerate. Sì, infatti. Sí, porque el Estado no da los recursos básicos necesarios a las personas que están encarceladas, hombres y mujeres, a las mujeres menos. O sea, ellas tienen que tener dinero para comprarse su propia toalla higiénica, su papel de baño. Perché lo Stato in Messico non fornisce un appoggio economico all'interno delle carceri, quindi loro stesse devono provvedere anche a comprarsi la carta igienica, perché non viene passata dallo Stato. No son cárceles europeas donde el Estado sí cubre todas las necesidades. Aquí no cubre ninguna, apenas la comida. Ellas tienen una comida y media al día. Loro non hanno soldi, quindi non potendosi pagare del cibo, a loro viene fornita solo un pasto e mezzo al giorno. Otra cosa che hemos promovido... Non sono come le carceri europee dove... Insomma, dipende quale, perché ci sono anche i centri di identificazione come carcere che non hanno di più in Europa. Adentro de la cárcel hemos promovido también actividades autogestivas con las mujeres. Ellas realizan bolsas a través de distintos materiales o pulseras, etcétera, y los vendemos afuera de la cárcel. Hanno promosso anche l'inizio di lavori all'interno del carcere, quindi loro stesse creano borse piuttosto che braccialetti e le vendono fuori per poter avere dei soldi da spendere dentro. Bene. Forse fermiamoci qua, perché se a parte se lei pensa ancora, vuole raccontare qualcos'altro. Bueno, que les agradecemos mucho este espacio y muchos saludos a la Radio Onda Rosa y también a la Casa de las Dones Luce y Siesta, ¿no? Oye, el nombre es muy bonito. Sí, sí, pues sí. Hicieron la fiesta el domingo. Ringrazia molto di questo spazio, ringrazia Radio Onda Rossa e anche la Casa delle Donne Luce e Siesta che ci ha ospitato per un evento di beneficenza. una bella serata. Y que les invitamos a venir y ya conocer todo el trabajo. La Casa Teresa es una casa de puertas abiertas. Por cierto, es una casa que ellas manejan. Vi invitano ad andare a trovarle. La Casa Teresa è una casa aperta, è una casa che viene gestita dalle donne, quindi chiunque voglia andare a salutarle o semplicemente andarla a trovare ed aiutarle un po', è benvenuto. Grazie. Nosotros somos un colectivo autogestivo, no tenemos ningún tipo de fondos y porque queremos también en esta forma de trabajo que es más independiente, ¿no? Es un colectivo autogestito, no hanno fondi e credono molto nel lavoro indipendente, per questo non si affiliano a niente, proprio perché credono nel lavoro indipendente dei professionisti, per questo. Sì, puoi spiegare anche perché non si costituirono come associazione, todavía? Bueno. Estamos valorando constituirnos como asociación porque fundaciones y ONGs que nos han ofrecido algún tipo de apoyo, pero hay que ser una AC, ¿no? Una asociación civil. Bueno, no tenemos fondos. Aquí cuesta 10.000 pesos, 1.000 euros, ponte, un poquito menos, 800 euros, constituirse como asociación civil, pero con eso podemos hacer muchas cosas antes, ¿no? También estamos empezando, llevamos un año y medio. Stanno pensando di fare tutte queste cose, ma in Messico è molto diverso rispetto a qui. Ci vogliono tra gli 800 e i 1.000 euro per costituirsi come associazione e giustamente dice ci sono molte altre cose da fare con questi soldi piuttosto che... Okay. Che costituirsi. I soldi dove le trovano? Come recaudan dinero? Hacemos fiestas. Nosotros financiamos el trabajo con nuestro propio trabajo. Pues yo soy psicóloga. Fanno delle feste per raccogliere fondi, finanziano loro stessi il lavoro, lei è una psicologa, quindi loro stessi si autofinanziano. Ok. Quando sta Rosa qui la esplotamos con quando Rosa para, è lì della Casa Teresa, la sfruttano per fare casa. Concerti e per pagare l'affitto della casa e così esplotiamo a nostri amici e amiche delle arti, no? E organizziamo attività, ci sfruttano i loro amici artisti per organizzare delle attività che portino denaro o fondi. Va bene, grazie, grazie. Gracias a vosotras, muchas gracias. Sì, claro che sì, un abbraccio molto forte. Scusate, no, una cosa invece che forse penso che interessi a molte che ci stanno ascoltando è come da qui possiamo finanziarle, quindi quali sono i contatti, eventualmente se c'è un modo, se hanno già pensato un modo per poter mandare degli aiuti economici. Già pensaron a alguna forma para que desde aquí se puedan ayudar económicamente, Pati? Pues no lo hemos pensado, pero estamos abiertas a cualquier manera de colaboración, por supuesto. Bueno, en algún momento tenemos amigos que, por ejemplo, ellos nos donan 10 euros, por ejemplo, al mes, ¿no? ¿Pero cómo los donan? O sea, ¿cómo se puede...? De donaciones. Sí, pero aquí es fácil. Prácticamente, ¿cómo se hace? Habrá que hacer una base en Roma para recibir esas donaciones. Ok. Dice que al momento, ancora, essendo un collettivo piccolo, si organizzano tra di loro... E hanno degli amici che mettono anche solamente 10 euro al mese per aiutarli. Bisognerà creare un fondo d'appoggio qua a Roma, nel caso. Sì, comunque loro c'hanno un indirizzo mail, dunque si può comunque almeno cioè, scrivere a collettiva Ceresa @hotmail.com, un'informazione che ridaremo dopo. E secondo me, se si vuole, si trova sempre un modo di farlo. Sí. Se va a encontrar, sí, sí, tenemos una cuenta, pero es una cuenta en Madrid y un mail a Rosa le he enviado por email. Sí, sí, tenemos el mail de la colectiva. Eso, muy bien. Sí. Eso es. Sí, así es estamos mail en comunicación. A cui si può scrivere. Va bene. Ok, grazie, continuiamo le nostre trasmissioni, cioè, ci sentiremo a settembre mi sa perché Rosa torna, dunque vabbè, puoi rimanere in collegamento, noi continuiamo con Rosa, che lei forse... Sì? Sì? Rosa, sì? Si quiere, si nos... bueno, vamos a contactarnos en septiembre otra vez cuando vuelva Rosa, para hacer un evento de apoyo. Vale. Sí, claro que sí, estamos conectados, os escuchamos. Sí. Sì, resteranno connessi ad ascoltare la radio. Intanto mando... No, è pronta, dunque può anche iniziare subito. Anche se forse avremo, me ne parleremo dopo la canzone, riparlare un po' di questa cosa della presunzione di innocenza. Che è sì, sì, infatti è il contrario, no? Cioè, questo è il sistema francese. Ma prenderemo un po' di tempo per approfondire questo punto importante in questa cosa là. Rosa, che dici? Che dici? Che ci fai? Una musica. Una musica. Come si chiama? Esta se llama, es una canción que se llama La Muralla. Para ser una muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros su mano negras, los blancos su blanca mano. Hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, ya sobre el horizonte. Sentite la voce e sentite l'istrumento, ma come si chiama questo strumento? Este instrumento se llama la jarana veracruzana y es un instrumento de la música tradicional de Veracruz, México. Lo strumento si chiama jarana veracruzana ed è lo strumento tipico di Veracruz, in Messico. E questo in particolare è stato, cioè, costruito da un amico professionale che, perché questo l'ha raccontato l'altra volta, che è un pezzo solo di cedro. Es de una sola pieza de cedro, está escarbado por dentro y bueno, y tiene para asombro de todo el mundo, no sé. Lo ha hecho un amigo mío que es italiano, que es de Torino, pero que es un apasionado de la música del son jarocho y que vive allá en Veracruz. Y entonces ha desarrollado la elaboración de los instrumentos de una calidad muy buena. Sí, sí. Fai la transición, va. L'ha prodotto, l'ha costruito da un unico pezzo di cedro un ragazzo italiano di Torino che si è appassionato alla musica del son jarocho talmente tanto che adesso vive a Veracruz ed è diventato un esperto costruttore liutaio di jarane. Mm-hmm. Se posso dire, per le appassionate, il pezzo di cedro è unico e non è assemblato come normalmente si fanno, quindi incollato, ma è scavato, quindi una roba veramente di una difficoltà e di una maestria meravigliosa. È molto bello questo strumento, vero? Possiamo tornare fare un piccolo passo indietro su questo progetto di Ceresa, perché una cosa che è abbastanza importante per capire, cioè, queste donne sono prese dunque dopo aver risposto alla violenza subita, sono accusate di violenza loro e sono messe dunque in carcere, e poi c'è tutto un processo abbastanza assurdo della giustizia, non giustizia messicana, che fa che una volta, forse lo spieghi tu un po' di meglio di me. Rosa, sono due persone che necessitano per denunciare una persona per che la prenda. Ti facciamo tornare insieme. Ahí está el abogado, está presente. Ah, sì, ah, vogliamo allora chiedere a lei allora. Allora, aspetta, è un ragazzo. Sì. Ma dimmi, scusa. Sí, te escucho. Sí, podemos hablar también con el abogado para que nos explique un poco cómo funciona. Sí, sí, ahora mismo te lo paso. Sì, voi non lo sapete, ma abbiamo in linea Skype appunto sia Pati che l'avvocato del Ceresa, quindi insomma stiamo girando la domanda direttamente. Hola. A chi poi se ne occupa. Hola. Come si chiama l'avvocato? Come ti chiami? David Vázquez. David Vázquez. David. Hola, David. Tenemos una pregunta. Hola. ¿Cómo pasa? Sí. ¿Cuándo se acusan las mujeres? Bueno, ¿quién la... ¿Quién las denuncia? ¿Cuánta gente necesita para que una mujer vaya presa en espera de un juicio? ¿Puedes repetir la pregunta? Cuando alguien denuncia a una mujer, ¿cuánta gente necesita para que la mujer se vaya a la cárcel y, bueno, y llegue a ser detenida por algo? O sea, una persona. Una persona además te puede denunciar y tú te vas directo a la cárcel hasta que pruebes que no eres culpable. Exacto, exacto. E in Messico c'è la presunzione di colpevolezza, quindi basta una sola persona che ti denunci e direttamente vieni portato in carcere finché non puoi dimostrare di essere innocente. E quanto tempo necessita per dimostrare che eres innocente? Cioè, quanto tempo dura il processo primero? Un processo può essere... Un juez te juzgue, quanto passa? Un processo può... tardar desde 6 meses hasta 5 o 10 años. Yo pensé antes. ¿Y todo este tiempo estás detenido todavía? Sí, sí, durante el tiempo del proceso están en prisión. Durante tutto il tempo del processo, che può durare dai 6 ai 10 anni, le persone rimangono in carcere. Perché c'è la presunzione di colpevolezza, quindi fin tanto che non viene concluso l'iter processuale vengono detenute. Ok, dunque compiscono comunque queste sentenze finché va dimostrato l'innocenza o la colpevolezza. E bueno, se la prendono, o sea, se il giudizio è che sono da detenere, sono culpabili, quanto tempo necesita para que ustedes puedan pedir una revisión? Io ho chiesto, dopo che è finito il primo grado di giudizio, quanto tempo deve passare prima che loro, come collettivo, possano chiedere una revisione del caso? Muchas de ellas, bueno, algunas nos hablan cuando están en proceso, entonces nosotros podemos apoyar para ofrecer sus pruebas y demostrar su inocencia. Otras ya están sentenciadas, entonces ya ha pasado mucho de la sentencia y no pueden acudir al recurso de apelación ni pueden ir al amparo. ¿Y cuándo pueden llegar a ese recurso? Cuando han sido sentenciadas, inmediatamente después de la sentencia. Si no, tienen que esperar a que pasen, que cumplan el 60% de estar en prisión para que puedan acceder a otros beneficios ya no judiciales. Dunque, ci sta spiegando che se loro riescono ad arrivare in tempo, quindi durante il processo riescono a fornire delle prove e ad aiutarle per uscire, normalmente ci riescono sempre. Se invece arrivano troppo tardi, quindi la prima sentenza è già stata emessa, per la legge dello Stato del Messico devono compiere il 60% della pena all'interno del carcere prima che possa essere richiesta per loro una revisione del caso. Quindi se vieni detenuto e il giorno dopo sei in possesso di prove che ti rendono innocente, devi comunque scontare il 60% della pena. Bueno, más o menos, ¿cuál es la pena por homicidio? Una mujer. Puede ser hasta 50 años. Fino a 50 años por homicidio. Sí, entiendo. ¿Y por hombres? ¿Es igual? Teóricamente sí, pero a veces es menor. Gli ho chiesto se anche per gli uomini è la stessa pena, dice che in teoria sì, però normalmente gli viene dato meno pena da scontare. David, grazie di questa precisione, noi torniamo qui in studio. Grazie. È importante questa precisione, perché fa veramente vedere quanto lavoro c'è, devono, e quanti anni sono rubati a queste donne, e come noi lo sapete siamo contro tutte forme di carcere che sì, rubano non, semplice. Non solo la situazione sociale, il contesto eccetera, ma è proprio una questione legalmente è possibile appunto detenerle per tutto il tempo del processo, quindi chiaramente, come diceva anche Sabrina prima, il fatto di non potere da un punto di vista proprio culturale, perché non parlano la lingua, perché non hanno i mezzi economici, perché chiaramente questo sistema è chiaramente si capisce che poi mette in atto tutto un sistema di corruzione per poter uscire prima, per poter insomma accelerare la tua pratica. Quindi chiaramente è proprio un sistema legalizzato di oppressione, non è soltanto una questione culturale o sociale, ma è politica, è proprio un fatto legale perfettamente costruito per mettere in difficoltà chi meno ha la possibilità di difendersi, come le donne indigene. Quindi. Eh sì, proprio così. Sistema che conosciamo troppo, troppo bene. Ritroviamo un po' di allegria con un'altra canzone. Caro, chiaro, noi comunque siamo qua, cioè è molto bello di avere tempo, di non essere presa tra una trasmissione e l'altra, tra l'agenda, il GEA, possiamo ancora cantare un'ora se vuoi. Rosa Sanchez. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que vuelva la alegría y a borrar el sufrimiento, en que vuelva la alegría y a borrar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. años de matanza tropicales. Lo que fueron a Vietnam a quemar los arrozales, hoy andan por esta tierra como perro en su corral. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño. Io vi ringrazio, so che adesso dovete andare per altre canzoni, altri luoghi dove cantare. Perché in concerto non c'è. Sì, stai dicendo che sai che tenemos che ir. Ah, sì. Dov'è? È un concerto privato. No, no. Ristorante il pueblo. Ah. Ristorante messicano il pueblo. È così, eh? Non si sa mai se qualcuno e vuole andare, sì. Noi finiamo qui le nostre trasmissioni, mandiamo musica, poi ci sarà il GR. Ecco per adesso. Grazie a Rosa Sanchez e grazie al collettivo La Seresa che insomma sono state con noi collegate via Skype dal Chiapas e ci hanno raccontato questa bellissima storia forte, bella, sì, di donne. E le lotte continuano. Mami, non me saque tu genio che te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco, si estás flaco tómate algo, huye de lo malo, búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobo, candalera, escenario y aire, que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo en nada, milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas harto, y si no me callo. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nace en fartadeo. Y si no mira mi tarteo, oh, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Que sé más bueno que los malos, dame mi virtud, quédate mi fallo. Si me pasé con la sal no tiene remedio, yo eso es lo que hago justo después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego, ya sé que pedir socorro no vale para nada. Te pedí barriga al favor, pido uno lleno, lo mejor significa barren tu terreno. Y si hay que suena, vos sueno, son misiones en el cielo. Así, así viso yo el suelo, así,